Ok, niente, come detto, volevo capire un po' cosa è successo, perché poi a quanto pare il corteo di sabato, di 2 sabati fa, è stato appunto fermato dalle guardie che non ne hanno permesso il completo svolgimento e comunque hanno fatto in maniera tale che il percorso che vi eravate prefissati non sia stato fatto poi quel giorno lì. Quindi volevamo un po' chiederti 2 opinioni al riguardo e come si sono mosse le guardie, cos'è successo con il corteo bloccato, eccetera. Sì, guarda, ti faccio un riassunto abbastanza breve per non dilungarmi. Cioè, la questione è stata abbastanza scandalosa a dire poco. Noi più di un mese prima di manifestazione avevamo chiesto il permesso proprio appunto per evitare che situazioni che già si erano presentate a novembre, che di sicuro volevamo scongiurare, perché avevamo invitato anche tanti studenti di altre città e tante associazioni di Milano. Allora abbiamo appositamente chiesto il permesso, permesso che ci è stato negato po pochissimi giorni prima, senza nessuna traccia scritta di questo divieto, solo perché eravamo in zona gialla. Ora, noi, questo è successo lunedì prima, il martedì e il venerdì noi abbiamo partecipato a 2 manifestazioni, una contro l'obbligo vaccinale, l'ingresso e l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale il martedì, e una venerdì contro l'alternanza scuola-lavoro, che abbiamo partecipato come assemblea, e tutti e 2 cortei si sono potuti svolgere tranquillamente. Da quel momento abbiamo detto: allora, perché mai dovrebbero evitarla a noi? Quando pare delle motivazioni c'erano, e per loro le motivazioni era che era sabato. E ovviamente, come si sa, di sabato i cortei non possono esistere. E con questa scusa, diciamo che dopo alcuni interventi che abbiamo fatto lì davanti al Politecnico di Milano, abbiamo provato a partire verso il nostro percorso, già preavvisato, siamo stati bloccati, ci hanno detto dopo averci bloccato per qualche secondo, ci hanno detto seguite noi, seguiteci, così facciamo la strada. Ovviamente non è che c'erano tante altre alternative, perché c'avevano già centinaia di poliziotti tutto intorno a noi, non seguiti, e ci hanno bloccato in questa strada per più di 3 ore, impedendo alla gente di uscire senza dirci niente riguardo al nostro destino, su cosa avrebbero dovuto fare, cosa se ci avessero schedato tutti o altro. Ci hanno trattenuti lì dentro per 3 ore, no? Una situazione davvero fuori dal mondo e abbastanza surreale, in cui era impossibile dialogare con i bigotti, che non volevano assolutamente nessun contatto, che non volevano una spiegazione, semplicemente volevano torturarci psicologicamente per evitare che facessimo altre manifestazioni. Purtroppo per loro così non sarà, perché ne faremo altre. Va bene, dai, magari in alcuni casi non parlare con la Digos, che queste situazioni può avere il suo lato positivo, che ci si inizi a rendere conto meglio di come si muovono questi ominidi e queste persone qui, insomma. E volevo farti, già che c'era, una domanda sulle adesioni. Questa è una curiosità mia, però, perché poi sul manifesto ho visto che c'erano delle adesioni di gruppi abbastanza, non so come dire, non vorrei proprio dire destrorsi o meno, magari non li conosco, comunque tendenzialmente ambigui, con parole d'ordine come sovranismo democratico. E quindi ti volevo chiedere appunto come avete vissuto voi questa roba qui e la decisione delle adesioni, se ci sono stati dei passaggi assembleari, come. Insomma, se volevi darmi un'opinione a riguardo questa domanda. Sì, guarda, in realtà la risposta è molto semplice. Il movimento contro il Green Pass, un movimento popolare, è molto eterogeneo. E proprio per questo, perché siamo persone che si oppongono a una misura discriminatoria, che rivendicano l'abrogazione di una determinata legge, si può discriminare su destra e sinistra. Cioè, siamo in questo momento su questa battaglia, poi magari su altre no. Su questa battaglia siamo tutti uniti contro un'unica legge, da qualunque provenienza politica. Poi è ovvio che sono degli estremi che non si possono accettare, ma per lo più il movimento non ha un orientamento, per quanto movimento politico, però non ha un orientamento in quanto movimento popolare molto eterogeneo, e forse è un bene che sia così, perché in modo tale che nessuno possa mettergli il cappello per intestarselo. Diciamo che anche la sua forza è il fatto di essere estremamente eterogeneo e partire proprio dal basso. Perfetto, va benissimo, dai, ti ringraziamo e speriamo insomma di risentirci in caso ci saranno prossime mobilitazioni, sperando che anche che l'esito sarà differente, certo. che a sto giro magari si riesce a fare un corteo, una cosa dicevi tu di importante è che appunto a Milano il sabato pomeriggio fare il corteo è veramente una cosa che dà fastidio ai poteri forti. Sì, sì, ma ci è stato proprio detto in faccia che non potevamo farlo perché era sabato pomeriggio e perché avevamo rotto le palle per troppe settimane e quindi non potevamo di nuovo metterci a fare cortei. E quindi questa è stata proprio la motivazione, che era assolutamente scandalosa, ma non possiamo aspettarci altro da questo paese. Quindi. Va bene, dai, perfetto, ti ringraziamo, dai, e serata, proviamo a risentirci al prossimo corteo lanciato. Dai, un abbraccione, ciao ciao, buona serata. Ciao ciao, buona serata.